get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a voi. Quella che ascolterete tra poco sarà la nostra 229esima trasmissione. In studio stasera staremo in due, io che sono Caterina e con me c'è Stefania. Ciao. Che pure avete già ascoltato da questi microfoni e che ci ha fatto compagnia già diverse volte. Ci dobbiamo purtroppo ancora scusare con voi perché continuiamo ad avere problemi con il cellulare sul quale solitamente vi invitiamo a mandare i vostri commenti. Speriamo di mettervi al più presto a disposizione un nuovo numero per i vostri SMS che sono molto molto molto graditi. Per il momento comunque rimangono attivi il telefono della radio che potete utilizzare per i trillini e per parlare con noi che è lo 06 49 17 50 ed il telefono della nostra sede al quale risponderemo il giovedì sera che è lo 06 68 64 201. Allora, la scaletta di questa sera prevede la comunicazione di alcuni episodi o accadimenti o, se preferite, fatti e misfatti che sono apparsi di recente sui giornali, ma che secondo noi non hanno avuto il rilievo che meritavano, o meglio, hanno scaturito pochissime reazioni e per di più quelle rese note sono andate assolutamente dalla parte opposta a quella che noi ci saremmo aspettate. Per questo motivo vi renderemo partecipe delle nostre riflessioni sperando di poter comunicare con voi in qualche modo. Ci sarà poi una vasta e nutrita agenda di appuntamenti ed iniziative che ci preme comunicarvi. Bene, a questo punto direi di ascoltare subito un brano musicale. Si tratta di Melissa Etheridge con il brano An Unusual Kiss. I've seen that look somewhere before. 1:25 a.m. I thought that you were headed for the door. And then something touched my skin. I won't ask you to leave here anymore. Was it the talk or the drink or the dance that led to this? I so naive, presuming the innocence. Well, it's a 1:54 and it's such an unusual 6 a.m. I got nothing left that I can say. 5:26 a.m. Black and white is melted into gray. My baby draws the shades as the taxi pulls away. Nel 1973 Feltrinelli pubblicò un interessante saggio, divenuto poi un pilastro del discorso femminista di quegli anni. Il sottotitolo di quell'opera era «L'influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita». L'autrice, una giovane Elena Giannini Belotti. Il titolo del saggio, lo avrete capito, era «Dalla parte delle bambine». In questo suo lavoro la Belotti sosteneva che la tradizionale differenza di carattere tra maschi e femmine non è dovuta a fattori innati, ma a condizionamenti culturali ai quali siamo tutte e tutti sottoposti nel corso dello sviluppo. Il modello culturale sul quale sono fondate le nostre società si basa sulla trasmissione e la conservazione di comportamenti considerati alla base di certi valori o disvalori universalmente riconosciuti come fondanti delle relazioni tra soggetti. Non esistono qualità maschili e femminili dovute alla naturalità, giusto per usare un termine caro a Papa Ratzinger, assieme al relativismo. La Belotti sostiene che le uniche qualità alle quali possiamo e dobbiamo fare riferimento sono invece qualità umane. Il meccanismo che dobbiamo creare è quindi quello dello svelamento dei miti, ad esempio il mito della naturale superiorità del maschio sulla femmina, cercando di restituire ad ogni individuo la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso a cui appartiene. Questo sosteneva nell'ormai lontano 1973 Elena Giannini Belotti, ed è stupefacente come a distanza di quasi 40 anni quel suo testo sia ancora di straordinaria attualità. Molte cose sono cambiate, ma al contempo sono irrimediabilmente rimaste uguali a se stesse. Non a caso nel 2007, giusto un paio di anni fa, Loredana Lipperini ha sentito il bisogno, diremmo impellente, di pubblicare un nuovo testo, quasi un omaggio all'opera di Belotti, dal titolo «Ancora dalla parte delle bambine». E il senso di questo nuovo lavoro sia sta tutto lì, in questo avverbio che indica il perdurare di una condizione, quasi fosse una condanna, il reiterarsi di una situazione impossibile da modificare. Le bambine di 40 anni fa si rispecchiano nelle bambine di oggi, ancora una volta confinate e racchiuse in un antico stereotipo. Oggi nei loro giochi le bambine trovano sicuramente più personaggi femminili, ma le eroine nella maggior parte dei casi le invitano ad essere belle e desiderabili, a farsi la lotta tra loro per il maschietto di turno, ad usare le loro arti ed i loro saperi quasi esclusivamente per la conquista di un innamorato e quasi mai per la conquista, lasciata ai più forti ragazzi del mondo. Voleva il vota torna tra sé. Ma fra streghe e fate, Barbie e Winx, Bratz e veline di altro tipo, che le preparano ad un ruolo futuro, il ruolo fondamentale di una donna, quello di madre, non sembra mai essere tramontato. Perciò bambolotti e cicciobelli a gogò nei negozi di giocattoli, passeggini e vestitini rosa, e Hello Kitty e orsacchiottini non mancano mai, ma in tutto questo immobilismo c'è il nuovo che avanza. Forse tra breve non vedremo più biberon da infilare nelle bocche succhianti di bambole e bambolotti con conseguenti rottini, perché una mente illuminata ha deciso che il passo successivo dovesse avere tratti di maggiore concretezza, quanto di più possibile vicino alla naturalità. E quindi ecco qui che un'azienda spagnola, la Berugian, produttrice di giocattoli, si inventa ed immette nel mercato statunitense, tanto per cominciare, la Baby Glutton, la piccola ghiottona, una bambola formato neonato che deve essere allattata sì, ma non con un biberon, bensì direttamente al seno. Ora, volete che quei furboni della Berugian non sappiano che le bambine di 6 anni non hanno seno? Niente paura, la bambola viene venduta provvista di una speciale fascia, una sorta di corpetto che si indossa e che ricorda un reggiseno da allattamento, munita di 2 fiorellini al posto dei capezzoli. La bambola avvicinata al corpetto, tramite speciali sensori, piange e succhia finché, evidentemente estenuata, si produce in un biblico ruttino di soddisfazione per la gioia della mamma in erba e, crediamo, dei suoi parenti più prossimi. E sì, perché questa cosa vi potrà anche far inorridire, forse perché siete un poco vetero come noi, ma se vi fate un giretto nelle meravigliose maglie della rete informatica, vedrete che molte mamme, vere queste, nei loro blog, lungi dall'incazzarsi come bufali incazzati, quasi quasi considerano la cosa alla fine non tanto grave, perché allattare è un fatto naturale e la malizia sta solo nei pensieri degli adulti e non dei bambini. A onor del vero, qualche critica la bambola l'ha pure sollevata. Secondo gli esperti, di cosa non è ben chiaro, il rischio è che la bambola possa stimolare troppo precocemente il desiderio di maternità nelle bambine. Troppo precocemente? Si direbbe dunque che tutte le bambine, ma proprio tutte, prima o poi e a tempo debito, avvertiranno l'impellente bisogno di maternità. Ai ai, carabelotti. Comunque sentite un po' che cosa risponde il direttore marketing dell'azienda spagnola. L'allattamento è un processo naturale per le donne. Non è una cosa che abbiamo inventato noi. La bambola aiuterà le giovani donne a sentirsi a proprio agio con una cosa che esiste in tutto il mondo. Terribile, direte voi. E invece no, diciamo noi. Il direttore marketing mica ha tutti i torti. Del resto, oggi come oggi, non si sa se i giochi simulino la realtà o la realtà riproduca i giochi. Nel dubbio, giusto per farci sentire a nostro agio con qualcosa che esiste in tutto il mondo, i giapponesi un paio di anni fa si sono inventati un bel videogioco, per i maschietti pensiamo noi, il cui titolo piuttosto esplicativo è Replay, una crasi che indica la ripetizione replay e lo stupro rape. Lo potremmo tradurre in modo un po' acrobatico con stupro ripetuto. Scopo del gioco, lo avrete intuito perché siete intelligenti, è stuprare quante più ragazzine possibili e costringerle infine ad abortire. Il tutto con primi piani molto eloquenti delle scene in atto e insistenti zoomate sulle lacrime e le suppliche delle vittime di turno. E che sarà mai, direte voi? Nei videogiochi la violenza è all'ordine del giorno, risse, squartamenti, omicidi, bombardamenti, guerre, seppellimenti prematuri e via dicendo. Ma se l'udite siete in ottima compagnia, se vi fate anche voi un giretto nel meraviglioso mondo del web, scoprirete che qualcuno dice sì che è terrificante, ma nella maggior parte dei casi questo gioco sta nel naturale solco del divertimento, del passatempo innocuo. Basta scandalizzarsi per questioni di sesso, non ci rigiriamo tanto intorno, finitela con queste critiche, che sono la madre delle censure e così via. Sentite un po' cosa commenta un appassionato di videogiochi, un esperto del settore, supponiamo, tale Marco. Un videogioco può anche essere una valvola di sfogo. Io uccido gente nel gioco perché so che non lo farei mai nella realtà. Esattamente come nella realtà non stuprerei mai nessuno, a meno che non si tratti di un gioco di ruolo con la mia ragazza, e che in quel caso sarebbe consenziente. Togliete un gioco del genere ad un ragazzino medio giapponese del liceo e vediamo se non ti stupra la stronzetta di turno che lo stuzzica per poi lasciarla a bocca asciutta. Lasciate alle fantasie lo spazio per poterlo essere. Un italiano un po' traballante, ma decisamente eloquente. Allora, pensate ancora che il direttore marketing si sbagliasse? Ascoltiamo ora Les Affaires con Angry Woman Blues. Well, I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. Yeah, I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. Well, you can feed my body, but you really gotta feed my head. I'm hungry like a dog, like a New York City rat. A school of piranhas or a Venus flytrap. Takes a lot to satisfy me, I'll eat your whole menu. But don't you dare forget, you gotta feed my head too. I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. Yeah, I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. Allora, l'articolo di Rosina appena letto da Stefania mi ha fatto venire voglia di andare ad indagare su come sia possibile che alcuni comportamenti, si intende quelli perfettamente conformi alle regole, possano essere identificati come naturali. Certo, non ho la presunzione di confrontarmi con la Giannini Belotti, la quale, quando la lessi a suo tempo, mi aprì un mondo, anche in considerazione del fatto che tra le mie aspettative lavorative c'era quella di diventare insegnante, cosa che peraltro sono riuscita a realizzare. Come lesbica sono portata a fare sempre molta attenzione a tutto ciò che viene definito naturale, forse perché solitamente ciò che fuoriesce dalla norma, quindi anche il mio lesbismo, viene definito devianza. Ecco perché mi interessa quasi in modo prevalente cercare di collocare, di individuare quelle che mi sento di definire le radici del condizionamento o, se preferite, gli albori di quelli che sono i dettami e i parametri in base ai quali è possibile individuare l'animale sociale universalmente riconosciuto come normale. Il concetto di normalità, ovviamente, si porta dietro un presupposto di naturalità, e sì, perché sarebbe oltremodo sciocco e controproducente definire normale ciò che si verifica, che non si verifica naturalmente, e questo lo capisco. Ma ciò che mi disturba è la ristrettezza dei parametri identificativi. Sì, perché chi ha stabilito che soltanto il comportamento adottato dalla maggioranza è definibile come naturale? Io, per esempio, mi comporto naturalmente da lesbica, essendo lesbica. Diciamo che mi viene facile innamorarmi e fare sesso con un'altra donna, anzi, per me sarebbe assolutamente innaturale agire da eterosessuale. Ma io, a differenza, mica pretendo che tutti e tutte diventino omosessuali per riconoscere loro l'appellativo di normale. Ma torniamo appunto all'etichetta di naturale e quindi normale. Come vuole la lingua italiana, utilizzando i sinonimi, la definizione normale significa che chi viene riconosciuto come tale è automaticamente consueto, solito, comune, usuale, ordinario, abituale, regolare e sano. Come contraltare, essendo io lesbica, praticamente sono il contrario di tutto questo. Ora, però, se non essere normale significa anche non essere consueta, solita, comune, usuale, ordinaria ed abituale, mi sta pure bene, perché attribuisco a queste terminologie l'accezione che mi rende unica, con buona pace del mio egocentrismo cosmico. Ma la questione cambia quando si definisce l'essere normale come regolare e sano. Per poter identificare il regolare e il sano, è necessario aver operato una precedente demarcazione dei limiti. Limiti che consentono quindi il riconoscimento e l'accertamento di tutte le fuoriuscite, le devianze, appunto. Ora, per tornare al nostro discorso originario, quello legato al riconoscimento delle radici e degli albori dei condizionamenti, voglio rendervi partecipi di alcune ricerche minimali che ho fatto prendendo visione di alcuni libri di testo della scuola primaria, scuola dove si ritiene si diano le cosiddette basi, e a me viene da aggiungere basi non soltanto di istruzione ed educative, ma anche basi culturali. E noi sappiamo bene quanto la cultura possa cambiare o impoverire una popolazione a seconda di come la si imposti. E anche basi formative, dove per formazione si intenda quella particolare forma di forgiatura dell'individuo, individuo che fa parte della società che lo sta appunto istruendo. Ho preso in esame alcuni racconti che ho trovato su un libro di terza gentilmente prestato da mia nipote. Premetto che ogni storia ha una sua struttura narrativa fissa che si esplicita sempre in forma uguale, sia se la storia viene raccontata con mezzo cinematografico, sia se descritta attraverso la scrittura, sia se esposta attraverso la narrazione orale. In qualunque caso o forma venga presentata, la struttura narrativa rimane la stessa ed è identificabile in 6 punti. C'è la situazione iniziale, dove si narra il contesto e lo stato delle cose, poi ci sono i personaggi, dove si elencano tutti gli interpreti dell'evento, il protagonista, cioè il personaggio principale del quale si narra la storia, L'antagonista solitamente si identifica con il cattivo che si oppone al protagonista. Poi c'è l'eroe che risolve la situazione critica, spesso innescata dal cattivo, cioè dall'antagonista, e poi la soluzione finale che disegna e racconta la conclusione della vicenda. Di soluzioni finali generalmente se ne possono delineare, schematizzandole, due tipologie: situazione finale drammatica e situazione finale a lieto fine. Solitamente nei libri per l'infanzia si predilige la seconda soluzione, adottando la storica frase "e vissero tutti felici e contenti". Prendendo in esame la tipologia delle storie lette sul libro di mia nipote, mi sono resa conto che le figure femminili avevano ruoli assolutamente standardizzati. Venivano infatti, nella maggioranza dei casi, dipinte, descritte ed inserite soltanto nella categoria dei personaggi o, al massimo, risultavano essere le cattive o streghe, arpie, matrigne, comari in piccioni, pettegole o quant'altro. In nessun caso erano eroine. Anche nel caso sporadico in cui venivano individuate come protagoniste, e ripeto che l'essere protagonista significa che la storia parlerà di te, significa che sei il personaggio principale del quale si narreranno le vicissitudini. Bene, anche quando erano protagoniste, il loro destino si risolveva sempre nel convolare a giuste nozze. Con chi? Ma con l'eroe, che domande! È forse per un debito di riconoscenza? O forse è solo che alle bambine deve essere chiaro che il fine ultimo della loro vita, e quindi il destino delle donne, è quello di essere sempre l'appendice del maschio? È per questo? Ma torniamo ad analizzare le storie mettendo in luce una particolare successione di avvenimenti che si vuole far credere che siano intrecciati indissolubilmente fra loro. Tutto diventa quindi una logica conseguenza. Allora, l'eroe entra in scena e risolve il problema della sciagurata. Da quel momento, con un magistrale colpo di fulmine, la donna si innamora perdutamente di colui che la salva. Lui la salva, quindi la sposa. Da sposata, quindi, lei ormai è al sicuro, nulla le potrà più succedere. Ma noi sappiamo quanto questo concetto sia assolutamente irreale. Ricordate? L'assassino alle chiavi di casa, per intenderci. Ma quello che passa nelle menti dell'infanzia in età scolare è tutt'altro. Colui che ti sposa viene descritto come salvatore di una vita inconsistente e grigia che prende colore solo se... E che dire poi circa l'immagine idilliaca delle famiglie che vengono rappresentate? Si riproduce sempre lo stesso schema stereotipato, senza alcuna possibilità di ipotizzare, anche solo lontanamente, situazioni familiari diverse da un modello che ormai è solo teorico. La realtà, come sappiamo, è ben diversa. Alla luce di tutto ciò, mi sono convinta che questa sorta di modello narrativo sia assolutamente allargabile alla maggioranza dei libri di testo che i bambini e le bambine della scuola primaria leggeranno per fare i compiti. Questi testi però hanno effetti devastanti, perché incentivano la produzione di una stereotipia culturale che non consente la formazione di un pensiero critico in grado di elaborare diverse possibilità di scelta. Ma non solo, si preclude alle bambine la possibilità di sviluppare la propria autostima. Ma ciò che ritengo molto più grave è che la distanza tra la vita reale e quello che si sente dentro, quindi, cioè quello che per qualcuno o qualcuna potrebbe voler significare avvertire l'obbligo pubblico di accantonare il sentire personale nel nome di un modello altro, più accettato socialmente, potrebbe significare il non riconoscersi in quello standard comportamentale, oppure potrebbe portare inevitabilmente a sentirsi inadeguata o inadeguato e quasi costretto o costretta all'adozione di un comportamento costruito ad hoc per essere diventato il più possibile vicino alla norma o, come sostenevo prima, più vicino alla naturalità. Quindi dicevo che la distanza tra la vita reale e ciò che si rappresenta diventa una delle cause scatenanti del disagio esistenziale dei nostri tempi. Si è innescato un crescente malessere culturale che ha come conseguenza lo smarrimento di senso che oggi nei giovanissimi si manifesta attraverso l'adozione di comportamenti anche molto contrastanti tra loro, tipo la rinuncia e la ribellione, la sfiducia e l'autoritarismo, la violenza e le forme di ritualismo. Queste manifestazioni rendono evidente il processo in atto di scissione tra individuo e struttura sociale. Cada ora un notizia, cada minuto malizia, armamente conversa. Elemento determinante diventa la normalizzazione, spesso spacciata per normalità. Uniti si vince, tutti insieme siamo forti, sono frasi ricorrenti che denotano un bisogno indistinto di omologazione terrificante. C'è la negazione e la conseguenza discriminazione delle minoranze. L'influenza dei mass media nell'orientamento dei valori della gioventù di oggi ha portato a rendere priva di senso la concezione che la diversità è ricchezza. Nell'odierna civiltà del benessere, uno solo è il valore dominante, il successo. Tale valore, immediatamente percettibile in termini di denaro, diventa il principale bene da ricercare ad ogni costo o, se preferite, costi quel che costi. E se per questo i modelli da emulare, secondo un recente sondaggio, sono Valentino Rossi per i ragazzi e Belen per le ragazze, il disastro è completo. No all'originalità dell'esistenza, no alla peculiarità del sentire. Apparire e apparire in un solo modo, quindi. E se non hai altro, ti puoi sempre sposare, magari in chiesa con l'abito bianco, lasciandoti convincere che davvero sia il giorno più bello della tua vita, e magari ti rifugierai in una vita di ruoli predeterminati che farai tuoi, e poi, magari, sentirai l'obbligo di passare quei ruoli predeterminati anche a tua figlia. Siete ancora convinte che quella bambola che si allatta al seno sia davvero solo un gioco? Beh, per noi lesbiche no, perché noi, così come abbiamo sempre fatto e sempre faremo, continueremo a costruire un altro esempio, senza lasciarci incastrare dalla ricerca spasmodica della normalità. Cada ora un notizia, cada minuto un malizia. E dopo questo mio lungo sproloquio ascoltiamo il brano di Janis Joplin dal titolo Piece of My Heart. Now, but now, but now, but now, but now, but now, but heal me when I E intanto noi vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissioni a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22 e qualche minuto in più questa sera, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email contatti@clrbp.it e il nostro sito web www.clrbp.it. Il numero per gli SMS è in via di ripristino, o se, come diciamo sempre, ma se le cose avete da dirci sono molte, potete inviarci una mail all'indirizzo di posta elettronica che vi ripeto nel caso non aveste fatto in tempo a trascriverlo: contatti@clrbp.it. Ripetiamo anche il telefono della radio, di Radio Onda Rossa, che è 06 49 17 50. Gli appuntamenti. Ci sono, sto prendendo gli appuntamenti. Allora, giovedì 26 novembre alle 21.30 presso la Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales 1B, ci sarà un'iniziativa di autofinanziamento con quota aperta per la realizzazione delle 5 giornate lesbiche. Si tratta di uno spettacolo teatrale dal titolo L'importanza di lavarsi presto, di e con Micaela Cappucci, che mette in scena uno spettacolo dissacrante, coraggiosamente laico e con punte di corrosivo anticlericalismo. Suor Melodia è la protagonista di una rappresentazione in cui parole maledette e anche dette male, come laicità, femminismo, omosessualità e libertà, sono ironicamente confrontate e necessariamente affiancate a sanità, ricettività, malattia e devozione. Lo spettacolo nasce in risposta alle rigide posizioni della Chiesa in maniera di sessualità, e nell'ascoltare Suor Melodia scopriamo, con divertita sorpresa, che fornire questa risposta non ha comportato formulare l'antitesi alle teorie ecclesiastiche. A Micaela Cappucci è bastato presentarle così come sono per rivelare in tutta la loro irresistibile, sebbene involontaria, comicità. Sabato 28 novembre si svolgerà la manifestazione nazionale organizzata dalle donne e indipendente dai partiti contro la violenza maschile sulle donne. L'appuntamento qui a Roma alle ore 14 in Piazza della Repubblica, da dove partirà il corteo che si dirigerà verso Piazza San Giovanni. All'interno del corteo ognuna porterà con sé i propri contenuti, le proprie parole chiave, ma tutte insieme diremo basta alla violenza maschile sulle donne. E sempre sabato 28, ma alle ore 19, nella sala Simonetta Tosi della Casa Internazionale delle Donne si terrà la presentazione del libro Stop Movie, l'ingrato compito di vivere al passato, di Cristina Zanetti. L'evento è organizzato dal Centro Femminista Separatista e dall'Area Cultura della Casa Internazionale delle Donne, che ricordiamo è in via San Francesco di Sales 1A. Sarà ospite l'autrice, diamo ora qualche informazione su di lei. Cristina Zannetti è laureata in filosofia, ha praticato diverse discipline artistiche, tra cui il disegno, la pittura, la fotografia e soprattutto la musica. In più occasioni si è esibita in pubblico, sia come solista sia in gruppo, con le sue canzoni o andando a pescare in un vasto repertorio, suonando la sua chitarra che passa dalla musica classica a quella brasiliana, dal blues o al rock, con una predilezione per gli ultimi due. Poi la svolta che la vede immersa in una delle esperienze più lunghe ed esaltanti, l'organizzazione del Festival Immaginaria, in cui lavora alla selezione e programmazione dei film. Realizza in quel periodo il cortometraggio fiction Corto Miraggi nel 2001, proiettato in diversi festival internazionali. Vi ricordiamo che l'evento è aperto alle sole donne e vi invitiamo a divulgare questa notizia e vi aspettiamo in tante. Vista la scaletta della trasmissione odierna, non ci può che far piacere dare questa notizia. Venerdì 11 dicembre alle ore 18 nella sede del CFS in via San Francesco di Sales 1B ci sarà la presentazione di She Game, il videogioco sulla storia delle donne. Il gioco è stato ideato, scritto e realizzato dall'associazione culturale lesbica e femminista Connettive ed è adatto a tutte le età. Presenterà Giovanna Olivieri, seguirà un piccolo appetitoso buffet. Vi ricordiamo che anche questo evento è aperto alle sole donne. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi metteremo un nuovo ed ultimo per oggi brano musicale, e sulle note di Annie Lennox con il brano No More I Love You, il CLR vi saluta dandovi appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. La settimana prossima è il primo dicembre, giusto? Sì, primo dicembre, ok. Allora, un caro saluto da Caterina. Ciao da Stefania. E ascoltiamo insieme Annie Lennox. Languages.